nostra amica ha iniziato giovanissima. Tipo Baudo di lei può dire: l'ho inventata io, l'ho inventata io. È una showgirl veramente completa e nonostante tutto è rimasta una persona semplice e una gran simpaticona. Facciamo un grosso applauso per Loretta Goggi. Cinese, mentre voi stappate un vino francese.